get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte da Deborah e Laura e un saluto invidioso a Caterina che nonostante abbia contribuito alla preparazione di questa trasmissione è beata lei già in vacanza. Dopo parecchio tempo ho ripreso in mano il libro Poeresia, 50 voci di una differenza, cominciando a rileggere tutte le poesie. Molte di queste, ho scoperto, erano ancora vive nella mia memoria, altre sono state una gradevolissima riscoperta. La cosa però che mi ha sorpreso più di tutto è stata la prefazione. In quelle parole ho trovato un'attualità tale che, per quel che mi riguarda, penso si sarebbe potuta usare come prefazione per un libro di poesie da mandare in stampa domattina. Onestamente non sono in grado di stabilire se questo sia un bene o un male. Da una parte ritengo che quelle parole denotino una coerenza di fondo con quanto oggi noi lesbiche diciamo, e ciò non può che essere consolante. D'altra parte mi sento calare addosso una sottile vena di tristezza, pensando che le cose dette nell'87 oggi sono ancora attuali. Questo mi dà la dimensione che forse troppo poco è cambiato. Il desiderio espresso nel pubblicare quel libro era legato alla speranza di una ripresa e di una crescita del fermento di molte, affinché si verificasse una diffusione capillare del movimento lesbico, che sicuramente avrebbe arricchito di esperienze e di differenze ognuna di noi. Nella breve prefazione del libro, ricordo stampato al cura del CLI, leggo la piccola analisi storica e scopro o riscopro che già verso la fine degli anni 70, dopo un periodo d'oro del femminismo, nel quale anche la cultura lesbica ebbe grande rilevanza e visibilità, iniziò una fase di grande repressione, dove un non ben identificato riflusso segnò la lenta fine delle produzioni dichiaratamente femministe. Contestualmente si inabissò in un mare di silenzio e di sommerso anche tutta la produzione lesbica. La scommessa di quel libro era appunto far riaffiorare il pensiero lesbico tanto da renderlo presente e forte. È un po' quello che vogliamo fare noi del coordinamento, per esempio, attraverso anche queste trasmissioni radiofoniche. Una delle 50 autrici ha detto: «Penso che per tante donne, come per me, scrivere sia stato usare la voce». E sempre nella prefazione, le curatrici spiegano come attraverso il linguaggio si connoti con chiarezza la scelta politica di liberarsi dal ghetto patriarcale in cui tutte le donne sono rinchiuse e costrette a tacere i propri veri desideri. E ora ditemi che non è attuale. E per concludere vorrei leggervi una poesia che si intitola Soprepotente. Forse l'ho scelta perché è in dialetto napoletano e io ho un debole per il napoletano, anzi per le napoletane. O forse l'ho scelta perché in un periodo come questo, dove si parla di inseminazione artificiale, dove il Papa continua a condannare le coppie di fatto, che sicuramente non sarebbero bravi genitori, dove sempre più spesso si cerca di insinuare nella testa dei più condizionabili che è diverso e sbagliato, mi sembrava carino, visto che comunque personalmente non vorrei né sposarmi né procreare. Mi sembrava carino, dicevo, spiegare che in fondo siamo noi che scegliamo. Ascoltate. Sì, o saccio già, io sono proprio potente. Tengo una capa tosta e piuttosto in un piscone. E quando dico sette, ad essere sette e mezzo. Mamma se ne accorgette subito. E subito dopo fatemi, voleva già abortì. Ma io sono proprio potente e non ci ho facetto fa. Perché mo abortì? Ne hai fatto tanto già. A me lasciamo sta, lasciamo campà. Che guerra vietta fa, quei cromosomi papà. E quando ce ne stevano? Ma io volevo essere femmina e femmina nascetta. È nata una femmina, che mi ha fatto a fa, ricetto il mio papà. Ma i son proprio potente, cari papà e mamma. Mo che volito fa? Mo ti si è fatta rossa, sana, robusta e bella. E come tua sorella ti ha vista fidanzà. Oi ma, lasciamo sta, io non mi voglio sposà. Io voglio bene femmina e non mi può cagnà. E ora per voi la splendida voce di Aretha Franklin in You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain. Donne e uomini si collocano diversamente sia nella produzione che rispetto alla distribuzione dei beni. La teoria economica non fornisce una spiegazione adeguata di questa differenza. Una parte dell'attività economica femminile, fino a tempi molto recenti, veniva ignorata. Gli economisti l'hanno studiata solo nell'ambito tradizionalmente e prevalentemente maschile, cioè il lavoro extradomestico retribuito, trascurando la restante attività economica tradizionalmente e prevalentemente femminile, produttrice di benessere, il lavoro di cura. L'incapacità dell'economia di spiegare la sistematica differenza tra uomini e donne nel sistema economico comporta l'incapacità di prevedere gli effetti differenziati che interventi di politica economica hanno sui due sessi e l'incapacità quindi di valutare le politiche economiche rispetto ad obiettivi di equità tra i due sessi. Gli anni 70, con la teoria della discriminazione e le elaborazioni riguardanti il mercato del lavoro duale, vedono una crisi della teoria neoclassica dominante basata sull'ipotesi di un equilibrio dei mercati che non necessita di interventi esterni. Nello spazio creato dalla teoria della discriminazione si crea la possibilità dei primi lavori che coniugano femminismo e strumenti standard di analisi economica. La principale autrice a muoversi in questa direzione è Barbara Bergman. I suoi contributi principali sono prodotti agli inizi degli anni 70, ma la sua visione del problema economico femminile confluisce in un volume solo nell'86 con The Economic Emergence of Women. Il cuore dell'analisi della Bergman è una teoria della discriminazione, secondo la quale per motivi del tutto extraeconomici i mercati del lavoro femminile e maschile si presentano come due mercati non comunicanti. Alcuni lavori sono considerati maschili e hanno salari elevati, altri sono considerati femminili e hanno salari più bassi. Le prescrizioni di politica economica che ne seguono sono di tipo liberista. Bisogna consentire alle donne di competere in condizioni di parità con gli uomini, perché ne sono perfettamente capaci. Ciò implica aprire loro i lavori maschili a parità di salario, ciò sia per una ragione di equità, sia soprattutto per una questione di efficienza. La Bergman sa che tale omologazione delle donne agli uomini nel lavoro porterebbe a una distruzione del nucleo tradizionale del lavoro di cura svolto dalle donne. La sua proposta è quella di industrializzare il lavoro domestico e la cura dei figli, cioè farli svolgere da apposite ditte di servizi. Aprire i lavori maschili alle donne a parità di salario. Questa è la radice teorica della politica comparable worth, che ancora oggi è il caposaldo delle politiche proposte dal femminismo americano. E questa proposta non è un'interferenza dello Stato nel libero mercato, ma un modo di rendere il mercato libero e quindi efficiente. Il richiamo ai marxisti radicali ci ricorda che nel contesto culturale in cui rinasce il movimento femminista degli anni 70, il marxismo è ancora fortemente presente nel dibattito culturale e politico. Nei paesi anglofoni l'elaborazione femminista è uno dei percorsi che determina l'implosione finale della teoria marxista. La teoria neoclassica ricuce la lacerazione creata dalla teoria della discriminazione avviandosi verso modelli microfondati a partire da agenti rappresentativi. Il marxismo invece semplicemente non riesce ad assorbire l'idea che autonomo dal conflitto di classe vi sia un conflitto tra i sessi e che il lavoro domestico non retribuito debba, per mantenere la coerenza della teoria, essere contato come una delle componenti del plusvalore. Non basta dire che bisogna combattere sia contro l'oppressione di sesso sia contro quella di classe. Le due lotte interferiscono negativamente e ciascuna relega l'altra in un secondo piano. La crisi teorica indotta nel marxismo dal femminismo, sia a livello politico che a livello teorico, concorre alla dissoluzione dall'interno di tale teoria e consente alla ripresa liberista di liquidarla definitivamente. In Italia, seppure in maniera minore che in altri paesi, la tradizione marxista è vista come esterna alla disciplina economica e le elaborazioni marxiste non entrano a far parte di un dibattito economico vero e proprio, anche se alimentano alcune delle proposte politiche nel movimento. Per esempio, il volume di Linea Menapace del 1987, Economia politica della differenza sessuale, pur essendo stato pubblicato tardi rispetto alla crescita del movimento delle donne, raccoglie bene il contesto culturale in cui il movimento si muove. Il libro di Padoa-Schioppa ha invece posizioni di puro e semplice pregiudizio misogino, ancora presenti alla fine degli anni 70 nella cultura economica italiana. Infatti Francesco Padoa-Schioppa precisa che le donne costituirebbero una forza lavoro debole in quanto naturalmente meno produttive. e si limita quindi a dimostrare come questa supposta improduttività sia dovuta all'alto costo del lavoro femminile, dovuto a sua volta all'ineguale distribuzione dei carichi familiari, alla mancanza di adeguati servizi sociali e ai vari vincoli che la legislazione di tutela pone alle donne, in presenza di una tendenziale parità retributiva. Tutta questa prima generazione di lavori, sia in Italia che all'estero, ha ancora in comune una caratteristica. Dall'analisi economica discende una proposta politica. Da questi lavori trapela un senso di sdegno, perché le autrici scoprono che applicando alle donne, quindi a se stesse, gli strumenti concettuali della propria disciplina, si accorgono che essa consente di porre, su basi scientifiche, la sensazione di iniquità. Trapela anche un senso di stupore davanti al fatto che le raccomandazioni di politica economica, che derivano logicamente da tale applicazione, un maggiore liberismo competitivo per le neoclassiche e una lotta contro l'oppressione di sesso per le marxiste, non siano mai state prima predicate dai colleghi. Questo sdegno si sterilizza nei lavori successivi, che fanno parte di un filone in cui il lavoro femminile viene accettato come oggetto di studio legittimo. I volumi di Goldin e Bettio si presentano come volumi a carattere più accademico dei precedenti e si inseriscono nella disciplina che insieme è storia economica ed economia del lavoro. La questione da cui partono ha carattere sia storico che demografico, oltre che economico, cioè su quali siano stati i fattori che hanno determinato l'aumento precipitoso della partecipazione femminile alle forze del lavoro. Bettio si concentra anche sulla questione della divisione del lavoro, cioè sulla segregazione occupazionale e sulla questione delle abilità necessarie a svolgere un determinato compito e della maniera in cui il mercato valuta tali abilità in maniera differenziata, mentre Goldin si concentra maggiormente sulla questione dei differenziali salariali e sulle tecniche necessarie per una loro valutazione. I lavori di Bettio e di Goldin sono la punta dell'iceberg di tutta una serie di contributi prevalentemente da parte di studiose su vari aspetti del problema posto dall'occupazione femminile, molti dei quali nell'ottica della discriminazione. In virtù di questi lavori si può dire che alla fine degli anni Ottanta la lacuna di conoscenze riguardanti il lavoro femminile è stata colmata. Si è provveduto a fare quello che per Harding nel 91 è il primo requisito di una conoscenza che sia dalla parte delle donne, rendere le donne visibili. Ciò che questa ricerca ha messo in luce, adottando metodi rigorosamente scientifici, è l'esistenza di una tumultuosa evoluzione storica del lavoro femminile e della divisione del lavoro tra i sessi e quindi di differenze importanti in quello che succede alle donne sul mercato del lavoro in ciascun periodo storico, di differenze nel comportamento dell'occupazione maschile e femminile e del salario maschile e femminile nel ciclo economico, della connessione tra fattori economici e fattori sociologici e culturali di contorno che consentono questa differente modalità di comportamento delle variabili economiche. La disciplina economica si è avviata verso una tendenza mainstream, basata sulla costruzione di modelli microfondati, cioè che hanno alla loro base l'idea di un agente razionale che ottimizza il mercato. Questo agente è sicuramente astorico, asessuato, anche se la critica femminista metterà in luce che le sue caratteristiche di comportamento lo assimilano maggiormente ad un essere umano di sesso maschile e non a uno di sesso femminile avulso da ogni contesto sociale. La Woolley nel 93, in un suo articolo, spiega in modo molto accurato e molto convincente quali siano i problemi che il femminismo ha sollevato. Secondo la Woolley, il femminismo ha posto 6 sfide alla teoria economica neoclassica: di sviluppare modelli che spieghino e che valutino, endogenizzandolo, il cambiamento delle preferenze, di consentire l'idea che gli agenti possano fare degli errori sistematici, di correggere errori nei fatti stilizzati, di incorporare uomini e donne nell'analisi economica, di capire cosa dà forma alle istituzioni che privilegiano o svantaggiano le donne e di sviluppare un migliore modello dell'attività riproduttiva e di cura. Davanti alla sfida posta dal femminismo, l'economia ha risposto e risponde rifugiandosi in un mondo più mascolino e perciò ritenuto superiore di fare scienza. Il tipo di conoscenza storica, sociale e dettagliatamente statistico-quantitativa brillantemente praticato da studiose come la Goldwin e Bettio viene dichiarato obsoleto. Per le studiose di economia che intendono continuare a studiare l'attività economica femminile, il prezzo da pagare diventa molto alto. si calano sul terreno della costruzione dei modelli ad agenti rappresentativi, ma ciò significa che le implicazioni di politica economica possono derivare solo da provvedimenti specifici che riguardano le famiglie, incrementi salariali, eccetera, ma si deve rinunciare completamente ad avere qualcosa da dire sulle prescrizioni normative di tipo macroeconomico. Davanti ad un prezzo così alto, altri economisti optano invece per una critica metodologica serrata ai presupposti stessi della teoria economica mainstream, condotta usando gli strumenti messi a disposizione dal parallelo sviluppo della teoria femminista. Una critica che a questo punto implica quasi un divorzio dalla pratica corrente della disciplina e la creazione di luoghi di discussione separati, in cui si possa condurre un dibattito scientifico che tenga conto di alcuni risultati femministi in campo epistemologico e che li applichi allo studio di questioni economiche. A chi osserva pare chiaro che esistono due generi diversi, che chiaramente obbediscono ad un'etica diversa, che hanno strategie di conoscenza solo in parte coincidenti. Gli Women's Studies sono la risposta alla necessità che le donne contemporanee hanno di comprendere i termini di questa diversità sistematica nell'approccio cognitivo e di applicarla ai vari soggetti di studio. Questa comprensione è necessaria ai movimenti femministi per sviluppare in maniera cosciente delle strategie di azione che consentano alle donne di entrare nella sfera del pubblico senza doversi completamente omologare, camuffandosi da esseri dell'altro sesso. Il saggio della Picchio del 91 precorre la tendenza di critica della teoria secondo delle categorie femministe e di elaborazione teorica autonoma a partire da problemi posti dall'attività economica delle donne, che costituisce la terza e più recente ondata di studi sulle donne in economia. Alcune politiche che sono state tra le proposte storiche del movimento delle donne a una più attenta analisi economica si rivelano controproducenti e ancora riemergono a causa della mancanza tra il personale politico femminile di un'adeguata cultura economica. Sto alludendo a misure che vanno dal salario alle casalinghe, all'assegno di cura, alle proposte familiste sulla casa, alle giovani coppie, ancora basata sull'antico cumulo dei redditi del coniuge. Politiche antidiscriminatorie sul mercato del lavoro, politiche che gestiscono il tempo del lavoro domestico ed extradomestico in modo compatibile con l'autonomia femminile, politiche fiscali e di spesa che rendano giustizia all'insieme dell'attività economica delle donne, oggi devono essere i principali terreni di confronto e di discussione, di elaborazione di una strategia di intervento che tenga conto delle necessità di dare reali opportunità economiche e sociali alle donne. E ora ci vuole proprio un po' di musica. Besame Giuda di Carmen Consoli. Prova in fondo. gli appuntamenti. Il Laboratorio Immagine Donna di Firenze, per la prossima edizione del 21esimo Festival Internazionale di Cinema delle Donne, che si terrà a Firenze dal 5 al 12 ottobre 1999, ha intenzione di presentare e di raccogliere in un catalogo, in più lingue, i migliori film realizzati sui temi della violenza privata e pubblica contro donne e bambini omosessuali, per dare visibilità al problema e per fornire strumenti alle operatrici che lo combattono. Il laboratorio è interessato a lungometraggi a soggetto, cortometraggi, documentari e opere in video. L'indirizzo è Laboratorio Immagine Donna, via San Gallo 32, 50 129 Firenze, telefono 055 47 46 80, fax 055 46 11 59. Il progetto, denominato X-Films, è promosso dall'Unione Europea, progetto Daphne, e dal Comune di Firenze, progetto Donna, e realizzato dal Laboratorio Immagine Donna. Per il mese di giugno il Circolo Arcilesbica di Roma promuove diverse iniziative. Ogni mercoledì alle ore 20:30 fino al 23:06 presso la sede del Circolo Incontri Introspettivi Gruppo Zero. Guardarsi negli occhi per guardare nella stessa direzione. Analisi motivazionale, consapevolezza e prospettive. Il 16:06 e il 24:06 alle ore 22 al Disco Pub Wild Bar in Viale dei Cappellari 35. Feste danzanti per sole donne con ingresso gratuito. Per eventuali informazioni 0368 3806 754. E poi ancora torneo di calcetto al femminile, Arci come voi, per informazioni 0347 134 2265. Sabato 26 giugno, ad un anno dalla nascita del circolo, in occasione del Pride 99, alle ore 21:30 presso La Palma, via Giuseppe Mirri 35, ci sarà un buffet con la premiazione del torneo di calcetto e animazione a sorpresa. Per ulteriori informazioni l'indirizzo email è arcilesbica@roma.hotmail.com. Si è aperta il 6 giugno al Teatro Flaiano di Roma la sesta edizione della rassegna Garofano Verde, scenari di teatro omosessuale. La manifestazione è diretta da Rodolfo Di Gianmarco e organizzata dalla Società per Attori. Il filo conduttore che lega quest'anno i 9 spettacoli in cartellone è Omosessualità e donna, tema che indaga l'attrazione edipica strettamente intellettuale che i giovani omosessuali avvertono per donne protettive e mature. Rivela segreti e bugie di matrimoni bianchi e spia relazioni tra gay e lesbiche. Da segnalare il gioco della seduzione delle due donne di Savannah Bay di Marguerite Duras. Si è svolta a Roma il 9 giugno una festa organizzata dalla Libreria delle Donne al Tempo Ritrovato in via De Fienaroli 31. È stata anche organizzata una raccolta di libri femministi degli anni 70 e 80 assenti nelle biblioteche generalista e una raccolta di fondi per dotare la biblioteca di WWF di nuovi scaffali. Uno specchio per Narciso è il titolo della sfilata dei maggiori stilisti italiani con cui il Circolo Mario Mieli festeggerà il Gay Pride il 27 giugno ai Fori Imperiali di Roma. Per ulteriori informazioni il numero è 06 541 3985. Scade il 30 giugno il termine per partecipare al premio Franca Pieroni Bortolotti, voluto dal progetto Donna di Firenze e Società delle Storiche per due ricerche inedite di storia delle donne tra antichità ed età contemporanea. Per informazioni, progetto Donna Viale Ugo Bassi 29, telefono 055 262 5770. Idee di imprese in festa a Festimpresa 99. Aspiranti imprenditrici e laureati in corso dal 12 al 17 luglio sul recupero ambientale e riutilizzo di aree e siti industriali dismessi. Per info, imprenditorialità giovanile SPA, via Campo nell'Elba 30, telefono 06 883 11483. Partirà ad ottobre un corso al SIOI, alla Società Internazionale per l'Organizzazione, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, per operatrici e operatori comunitari. 6 settimane per orientarsi tra i meccanismi di gestione di fondi e di finanziamento e conoscere il sistema di informazione europeo. Il numero di telefono è 06 69 20 781. Ancora una notizia agghiacciante su stupri di gruppo. Sulla Repubblica del 6 giugno si legge che violenze di gruppo su ragazze minorenni venivano perpetrate a Catania per festeggiare il successo dei raid criminali o per sfogare la rabbia dei colpi falliti. Particolari davvero agghiaccianti raccontati dai collaboratori di giustizia e successivamente confermati anche dalle vittime che hanno raccontato dell'harem degli uomini della mafia di Paternò, in provincia di Catania. Sesso e mafia, stupri di gruppi e violenze inaudite, vittime alcune ragazze del paese, costrette a subire e a tacere sotto minacce di morte. Una di loro è stata violentata dai 14 anni per 5 anni di seguito, in cui è dovuta stare sempre a disposizione degli appartenenti all'organizzazione. Titolone sui giornali, il Senato anticipa la riforma, tra un anno anche in Italia le donne potranno essere arruolate nelle forze armate. Il disegno di legge dovrà essere ora approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama e poi tornare alla Camera per la ratifica delle modifiche inserite dal Senato. L'accesso delle donne nelle forze armate sarà esclusivamente su base volontaria. Cosa ci trovino di positivo in tutto questo mi è difficile comprenderlo. Avrebbero fatto meglio ad utilizzare tempo e denaro per migliorare la condizione femminile nel quotidiano, cercando di limitare al minimo, di eliminare del tutto, il concetto di forza armata. Ma è un mio parere. È stata una telefonata anonima al 113 a far scoprire che una bimba di 3 anni era stata costretta a prostituirsi con la madre nella zona vecchia di Brindisi. Come palo all'ingresso dell'abitazione dove sono stati scoperti il pedofilo, la donna tossicodipendente e la piccola di 3 anni, vi era il padre 52enne con altri 2 figli molto piccoli. La musica di sottofondo che avete ascoltato è della pianista Inge Latz e del gruppo Kick la Luna, tutte rigorosamente lesbiche, come le Murmurs, che per lo spazio di musica lesbica indipendente ci presentano Sucker Upper. Asexual, far from intellectual, fashion stealer, freewheeler, bats her eyes to cover up her lies. She's a sucker upper, star fucker, sucker upper, star fucker. And I'm gonna blow her. Far from intellectual, fashion stealer, freewheeler, bats her eyes to cover up her lies. She's a sucker upper, star fucker, sucker upper, star fucker. I'm gonna blow her cover. Gone. So long. Siete all'ascolto della 38esima trasmissione del ciclo È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane, nell'ambito del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa. Chiamateci qui in radio allo 06 46 1750 o presso il centro femminista separatista in via San Francesco di Sales 1B. Il numero è 06 68 64 201, telefono, fax e segreteria telefonica. Potete trovarci ogni lunedì dalle 20 alle 23 o scriverci una mail all'indirizzo clr50@hotmail.com. E dovevo fare una cosa per me assolutamente nuova, leggere una ricetta. Da un po' di tempo a questa parte sembra che alle componenti del coordinamento sia venuta una sindrome strana. A turno si stanno prodigando, direi in modo egregio, per trovare sempre nuove ricette che aiutino. È proprio vero, non si vive solo di pensiero, anche la carne è importante e noi lesbiche lo sappiamo bene. Dal canto mio non volevo essere da meno, avevo solo un piccolo problema. Una bazzegola, una quisquiglia, insomma, non sono quel che si dice una cuoca sopraffina. Ad aggravare questa mia lieve lacuna c'è il fatto che il mio corpo, seppure bello, anzi direi fantastico, tende a me ad ingrassare. Certo non lo si può considerare un problema di fondamentale importanza nell'equilibrio della mia vita, ma perché peggiorare la situazione? Ho chiesto allora aiuto a Carmela, la quale, consapevole di questa mia inezia, mi è venuta incontro scrivendomi un menù completo con pietanze buone e afrodisiache, ma soprattutto dietetiche. Allora, mi raccomando, pronte con carta e penna e sempre più consapevoli del fatto che se deciderete di invitare una donna a casa vostra per una cenetta intima, non potrà rispondervi di no adducendo la scusa della dieta. Carmela mi ha garantito che mangiando queste prelibatezze non si ingrassa nemmeno di un etto. Il dopo cena è lasciato alla vostra fantasia. Allora, pronte? Antipasto, gamberetti in salsa verde. Mettete un vasetto di yogurt magro, un rametto di erba cipollina, tre foglie di menta o mentuccia e un pizzico di sale in un frullatore e frullate fino ad ottenere la salsa verde. Lessate i gamberetti o gli scampi puliti per 4-5 minuti in acqua bollente. Unitele alla salsa e mettete tutto in frigo. Servite il tutto in una coppetta su una foglia di insalata rossa. Vellutata di piselli e carciofi. Lessate piselli freschi puliti e tre cuori di carciofo a pezzi, una patata e una cipolla, l'aggiungete quasi a fine cottura e con poca acqua di cottura. Frullate tutto e passate nel colino. Ricuocete il tutto per ottenere una purea discretamente densa. Servire calda con un velo di parmigiano e pepe. Un bel secondo di pesce. Prendete un nasello di circa 200 grammi e cuocete con poco olio in una pentola antiaderente con pepe e sale e un rametto di maggiorana. Per 4-6 minuti è la cottura. Servite sulla foglia di lattuga e ornate con fettine di limone e ravanelli a tondini. Dopo una cena di questo tipo, An Unusual Kiss di Melissa Etheridge. It's 1:25 a.m. I think I've seen that look somewhere before. 1:25 a.m. I thought that you were headed for the door. Something touched my skin. I won't ask you to leave here anymore. Was it the talk or the drink or the dance that led to this? 'Cause I so naive, presuming the innocence. Well, it's a 1:54. It's such an unusual kiss. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Come on, come on, come on. Over and over. Come on, come on, come on. We all wanted this. Come on, come on, come on. Over. Dopo un grande dolore, i sensi solenni si atteggiano, come tombe, i nervi siedono cerimoniosi. Il cuore, irrigidito, si chiede, fui io a sopportare, e fui ieri o secoli addietro. Meccanici si muovono i piedi, percorso di terra, di aria, di nulla, un cammino legnoso che va a caso, una pace di quarzo, come pietra. Questa è l'ora del piombo, che ricorda chi sopravvive, come gli assiderati, la neve. Dapprima una sensazione di freddo, poi lo stupore, e infine la resa. Non è che siamo tristi, è che la Dickinson ci piace proprio tanto. Baci e a martedì prossimo. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.